Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Scuola, manifestazione nazionale il 26 settembre per denunciare ritardi e incertezze nella ripartenza. Intanto oggi test di medicina per oltre 60.000 studenti. Speranza dice: siete il futuro. Incidente sul lavoro in provincia di Cuneo, morto un operaio, l'altro è gravemente ferito. Navalny, la Russia respinge le accuse sull'avvelenamento del leader dell'opposizione, nessun motivo per sanzioni a Mosca. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Oggi, come avete sentito dai titoli, si svolgono i test d'ingresso alla facoltà di medicina per oltre 60.000 aspiranti medici. Siete il futuro, ha detto il ministro della Salute Speranza, che ha parlato anche del vaccino che potrebbe arrivare già entro la fine dell'anno in Italia. Ne parleremo tra poco. Intanto, a proposito di scuola e di futuro e di università, ma soprattutto di scuola, il 26 settembre si annuncia la manifestazione nazionale per la scuola, promossa al comitato Priorità alla Scuola, un comitato non sindacale al quale però aderiscono anche i principali sindacati CGIL, CISL e UIL, mentre proprio nelle stesse ore si vanno definendo le nuove regole per l'avvio dell'anno. Sentiamo. Tutti in piazza anche nei tempi del Covid per protestare contro ritardi e incertezze che accompagnano l'avvio dell'anno scolastico, rischiando di comprometterne la riapertura in presenza e in sicurezza. Anche i sindacati della scuola, della CGIL, CISL, UIL e Gilda prenderanno parte alla manifestazione indetta dal Comitato Priorità alla Scuola, che si terrà sabato 26 settembre a Roma. Ora è il momento non solo di riaprire le scuole alla svelta, dice Landini, CGIL, ma anche di fare una grandissima riforma del sistema scolastico. E intanto continua il braccio di ferro con la ministra Lucia Azzolina, terreno di scontro le graduatorie dei supplenti che quest'anno per la prima volta sono state interamente digitalizzate. Liste piene di errori nei punteggi, con il rischio di ricorsi e caos, attaccano i sindacati. Pretestoso e fuorviante parlare di caos graduatorie, replica il ministro. Le anomalie sono state risolte, le nomine per i supplenti arriveranno entro il 14 settembre. Mentre il ministro della Salute Speranza ribadisce ancora oggi che la ripartenza in sicurezza è una priorità assoluta e su questo si sta lavorando incessantemente. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E dicevamo intanto che oggi si svolgono i test d'ingresso per la facoltà di medicina, riguardano oltre 60.000 studenti aspiranti medici. Sono più di 66.000 gli studenti che oggi in tutta Italia partecipano al test d'ingresso alla facoltà di medicina e chirurgia, il primo a svolgersi nel rispetto delle norme anti-Covid. 100 i minuti a disposizione per rispondere a 60 domande e aggiudicarsi uno dei poco più di 13.000 posti disponibili sul territorio nazionale. Gli argomenti sono cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica. Ad accogliere i candidati, che quest'anno sono 1.500 in più dello scorso anno, un protocollo molto severo e dettagliato per svolgere il test in sicurezza, come ha sottolineato il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. Le misure vanno dall'accesso differenziato alla distanza in aula dove si fa il test, dall'uso delle mascherine alla sanificazione, al controllo degli spazi, effettuato dall'università stessa e con il supporto della Protezione Civile e di altre istituzioni locali. Il test poi si svolge nell'ateneo più vicino al candidato e non in quello indicato come prima scelta per evitare gli spostamenti tra regioni. Resta il tema delicato di chi non può partecipare alla prova perché in quarantena a causa del Covid-19. Per questo il governo sta valutando una sessione speciale in una nuova data. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore. Ne parleremo ancora con il ministro Manfredi a partire dalla domanda che ricorre ancora in queste ore: troppo pochi posti per gli aspiranti medici, nel momento proprio nel quale l'Italia scopre la necessità invece di avere medici per il Servizio Sanitario Nazionale. Questo accadrà dopo le 13:15, ripeto, con il ministro Manfredi. Adesso le altre notizie. Cominciamo con la Camera, che ha approvato il decreto Covid che ora va al Senato. I voti favorevoli sono stati 219, i contrari 126, un astenuto. Il decreto, tra le altre cose, come ricorderete, proroga l'emergenza al 15 ottobre. Intanto ieri in Italia i nuovi casi di contagio di coronavirus sono tornati a salire, 1.326 in 24 ore, numero record di tamponi pari a 103.000, 109 le persone invece ricoverate in terapia intensiva. Il Covid che intanto, fa sapere il garante dei detenuti, è entrato in ben 42 carceri su 191 in Italia. Sentiamo. Il coronavirus è entrato in 42 carceri su 191. Le persone che si sono ammalate sono state 290. Dal punto di vista della vita in carcere, è positivo che all'interruzione delle visite sia corrisposta una sperimentazione dei sistemi di videochiamata. Questa è la fotografia che è stata fatta questa mattina dal Garante Nazionale dei Detenuti, Mauro Palma, per quanto riguarda i luoghi di restrizione durante la pandemia. Luoghi di restrizione che nel modello italiano favoriscono il contatto con figure di volontariato, insegnanti, ma tutto questo si è ridotto al lumicino. Le strutture sono tornate a essere molto chiuse e sono aumentati anche i suicidi. Noi abbiamo a oggi 43 suicidi, mentre nello stesso periodo, cioè il 3 settembre del 2019, ne avevamo 32. Quindi c'è stato un incremento. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto c'è un altro tema che riguarda il mondo del carcere e che fa discutere, perché circa la metà dei boss scarcerati durante l'emergenza coronavirus, proprio a causa del virus, si trova ancora agli arresti domiciliari, nonostante il decreto Bonafede, che invece avrebbe dovuto riportarli in carcere. Se ne occupa Daniele Biacchessi. Erano stati inviati ai domiciliari in piena emergenza sanitaria Covid-19. Sono i principali boss di Cosa Nostra, alla guida dei clan della nuova mafia, che si spartiscono affari, controllo del territorio, rapporti con la politica. Dovevano tornare in carcere, secondo quanto stabilito dal decreto del ministro Bonafede e firmato dal capo dello Stato Mattarella il 10 maggio scorso, ma oltre la metà di loro si trovano ancora tranquilli nelle proprie abitazioni. Il provvedimento messo in campo dopo le dure polemiche scaturite dalla scarcerazione di alcuni capi mafiosi prevede la concessione dei domiciliari per coronavirus sottoposta a valutazione del magistrato di sorveglianza entro 15 giorni con cadenza mensile e giudizio immediato se c'è una struttura adeguata per accoglierli. In particolare è scritto che quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre anche di ufficio e senza formalità accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia. Eppure 112 su 223 stanno ancora ai domiciliari. Gente come Pino Sansone, che tentava di riorganizzare Cosa Nostra, Gino Bontempo e altri del loro rango. Il segnale è poco edificante e dimostra ancora una volta lo scarso grado di controllo nell'applicazione delle leggi del nostro sistema giudiziario. Adesso andiamo all'estero, in Russia. Il Cremlino respinge le accuse di un suo possibile coinvolgimento nel presunto avvelenamento dell'oppositore russo Alexei Navalny e sostiene di non vedere motivi per eventuali sanzioni proprio contro la Russia. Lo riportano le agenzie russe, citando il portavoce di Putin Dmitry Peskov, una dichiarazione che giunge dopo la richiesta di una presa di posizione da parte di Angela Merkel, nei confronti di Putin, dopo che, come saprete, la Germania ha accolto Navalny e i medici di Berlino hanno acclarato che l'oppositore è stato avvelenato. Con la cronaca rientriamo in Italia. Un operaio è morto, un altro è rimasto ferito in un grave incidente sul lavoro in un'azienda agricola in provincia di Cuneo. I due operai erano impegnati nella verifica di un silos alto una quarantina di metri, riempito ieri sera con mangime per animali, e sono caduti all'interno. Uno di loro, Davide Gennaro, 22 anni, ha perso la vita, l'altro, suo fratello, di 25, è gravissimo. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. In un primo tempo si era pensato che la caduta fosse dovuta ad un cedimento strutturale, ora però si ipotizza che i due giovani, figli del proprietario dell'azienda agricola di Cavaller Maggiore nel Cunese, siano rimasti intossicati dalle esalazioni del mangime, una volta aperta la copertura del silos, cadendovi poi dentro. A dare l'allarme è stato proprio il padre. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Due persone, marito e moglie, sono stati fermati per l'omicidio del neonato, il cui corpo è stato ritrovato in una aiuola ieri pomeriggio nel Salernitano a Rocca Piemonte. Nel corso della scorsa notte sono stati infatti i carabinieri di Mercato San Severino e di Salerno a sottoporre a fermo di indiziato di delitto per omicidio marito e moglie rispettivamente di 47 e 42 anni. Adesso invece in chiusura ci occupiamo dell'annata 2020 per quanto riguarda le uve italiane. La vendemmia dovrebbe essere un'annata di quantità e qualità, lo dicono le stime vendemmiali di Assoenologi, Ismea, Unione Italiana Vini presentate oggi. Le preoccupazioni per il settore sono invece legate alla situazione economica internazionale. Laura Bettini ha intervistato Raffaele Borriello, direttore generale di Ismea, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. Sentiamolo. Quest'anno avremo una produzione importante sia sotto il profilo quantitativo, perché raggiungiamo i 47 milioni di ettolitri e quindi siamo in lievissimo calo rispetto a quanto accaduto nel 2019, ma soprattutto avremo un'annata che sotto il profilo qualitativo risulta eccezionale. Ovviamente la vendemmia è in corso, bisognerà sperare soprattutto per i produttori che non si verifichino nel periodo di settembre, primo ottobre, dove ancora in alcune aree si farà la vendemmia, situazioni climatiche avverse. Il clima senz'altro, poi la pandemia che ha portato una riduzione, no, del PIL e degli scambi a livello globale, le guerre commerciali, la Brexit, come vede il futuro? Io penso che non dobbiamo abbassare la guardia. Il settore del vino italiano, come dicevo, negli ultimi anni è cresciuto molto, ha tante potenzialità. Bisogna oggi ragionare sugli investimenti e farsi trovare pronti, perché il settore italiano, il vino italiano, ha tutte le carte in regola per essere determinante e importante a livello globale. 13 e 12 minuti, siamo alla pausa, effetto giorno, torna tra poco con tutte le altre notizie, sarà con noi il ministro dell'università Manfredi, poi un piccolo spazio sul sì e no al referendum del 20 settembre e poi novità in arrivo con il decreto semplificazioni sulle strade italiane, perché si annuncia l'arrivo delle strade ciclabili, qualcosa di diverso dalle piste ciclabili, ne parleremo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Scuola, manifestazione nazionale il 26 settembre, partecipano CGIL, CISL e UIL per denunciare ritardi e incertezze. Intanto oggi test di medicina per oltre 60.000 aspiranti medici. Speranza dice: siete il futuro. Incidente sul lavoro in provincia di Cuneo, morto un operaio, l'altro è gravemente ferito. Navalny, la Russia respinge le accuse sull'avvelenamento del leader dell'opposizione, nessun motivo per sanzioni a Mosca. E 15 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, avete appena sentito i titoli delle notizie di oggi. È la giornata dove si svolge il test per l'accesso alla facoltà di medicina. È con noi il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. Buongiorno. Buongiorno a lei, radioascoltatore. Grazie per aver accettato il nostro invito, Manfredi. Allora, c'è tanta attenzione naturalmente oggi su questo test, è ovvio, no? Per la centralità che questa professione del medico ha acquisito in questi mesi di crisi. I posti disponibili quest'anno sono 13.072, iscriversi alla prova sono oltre 66.000 studenti, circa 2.000 candidati in meno rispetto all'anno scorso. Manfredi, la critica però, la domanda è sempre la stessa: troppo pochi questi posti, troppo pochi, dicono gli studenti, proprio nel momento in cui si parla anche di carenza e si continua a parlare di carenza dei medici nel Servizio Sanitario Nazionale. Cosa risponde a questa, che è una critica che torna ogni anno? Ma guardi, quest'anno abbiamo aumentato i posti di 1.500, quindi del 15%, e abbiamo superato quelle che erano le previsioni di programmazione del modello di programmazione nazionale. Quindi noi stiamo andando verso una maggiore offerta e quindi abbiamo saturato l'offerta che noi oggi abbiamo, anche con più corsi di laurea in tutta Italia, e questo sicuramente è una mossa progressiva per far laureare più medici, ma soprattutto per mantenere una formazione di qualità. 1500 posti, lei ritiene che possa essere una risposta sufficiente a questo fabbisogno che c'è importante di medici in Italia? Sì, dal modello che ci è venuto dal... C'è un problema con la linea, con Manfredi, vediamo se è ancora in linea, proviamo a recuperarlo. Perché appunto la questione che naturalmente ritorna ogni volta è questa, no? Della carenza di posti. Poi sappiamo anche, sarebbe stata la prossima domanda, che l'imbuto è l'imbuto per quanto riguarda l'accesso alla professione è legato anche alla possibilità di accedere alle borse di studio per i medici in fase di specializzazione. 1500 posti in più. Vediamo se recuperiamo Manfredi. No, non lo recuperiamo. Vediamo se. Allora, facciamo così, regia. Sì, ce l'abbiamo, Manfredi. Eccolo. Ci sente? Eccolo qua. Stava rispondendo. Sono qua perché sono in treno. Quindi... Ah, benissimo, benissimo. No, le volevo dire, sì. Diciamo, il modello che era di previsione prevedeva un numero inferiore. Noi l'abbiamo proprio aumentato, tenendo conto poi di quelle che sono le esigenze straordinarie del momento. E quindi comunque in base ai modelli che avete 1500 posti in più possono essere sufficienti a colmare la lacuna. L'altro punto in cui si ferma l'accesso alla professione medica è quello delle borse di studio, la possibilità di finanziare più borse di studio. Su questo fronte ci sono 5500 borse in più, che sono il 70% in più rispetto all'anno scorso, quindi questo è stato veramente uno sforzo straordinario che è stato fatto per proprio mettere più medici specializzati. Senta, un'ultima cosa che riguarda sempre il test che si sta svolgendo in queste ore è relativo a quei ragazzi. Io non so se ci sono delle stime su quanti siano che si trovano in isolamento domiciliare proprio perché sono venuti a contatto con casi di Covid e che non possono quindi recarsi a fare il test, che si fa una tantum, quindi non è una cosa recuperabile. Era circolata l'ipotesi, ministro Manfredi, che potesse esserci un'altra data a settembre. È un'ipotesi realistica? E niente, non so neanche se ha sentito la nostra domanda su questa ipotesi. Vediamo. Allora, io intanto andrei col prossimo approfondimento. Vediamo se... Base. Regia, così prendiamo fiato. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare Manfredi per chiudere l'intervista, perché l'interesse è anche legato alla ripresa dell'anno accademico, a quante università faranno lezioni in presenza, a quante faranno lezioni invece digitale, lezioni online. Questo se riusciamo a recuperare il collegamento. Altrimenti nel frattempo vi faccio sentire, l'avevamo annunciato nel sommario, un piccolo spazio legato. Abbiamo Manfredi? Sì, allora Manfredi, ben ritrovato. Proviamo a finire l'intervista. Allora, la domanda su cui ci siamo lasciati è: ci sarà una data di recupero a settembre per il test per chi non può andare? Non è proprio cosa, niente, va bene. Oggi va così. E va bene, allora andiamo invece con quanto previsto in scaletta, cioè con un piccolo spazio dedicato al referendum che si voterà, per cui saremo chiamati a votare il 20 e il 21 settembre, il referendum cosiddetto sul taglio dei parlamentari. Allora vi proponiamo due voci che abbiamo sentito questa mattina, naturalmente una per il sì, una per il no. Sono andate in onda durante Uno Nessuno 100 Milan. La voce per il sì è quella di Roberto Perotti, economista, professore ordinario alla Bocconi di Milano. La voce per il no è quella di Massimo Villone, anche lui professore di diritto costituzionale all'Università di Napoli Federico II. La domanda alla quale rispondono in sequenza è quella relativa al risparmio economico, che è uno dei motivi per i quali è stata proposta l'abolizione del numero dei parlamentari. E invece da parte del no sappiamo che si dice che il risparmio non è quello che invece viene ventilato, cioè un risparmio in termini economici sostanzialmente inferiore. Allora sentiamo Roberto Perotti per il sì e poi Massimo Villone per il no. Risparmio è irrisorio rispetto alla spesa pubblica e al debito pubblico italiano. Non è certo per ridurre il debito pubblico che si fa questa riforma, che è stata proposta questa riforma, però ci vuole qualche altro argomento oltre al fatto che si risparmia poco per votare no, perché se questo fosse l'unico argomento, o se anche risparmiassimo un euro in totale, sarebbe da fare. Ovviamente immagino che ci siano altri argomenti per votare no, perché da solo il fatto che i risparmi siano piccoli finché sono positivi, finché, anche se sono piccoli, da solo questo sì. è un argomento. Sì. È vero che le forze politiche hanno votato in massa nell'ultima votazione, ma l'hanno votata, direbbero i penalisti, per motivi futili e abietti, perché hanno scambiato la Costituzione con la nascita di un governo. Non si baratta una Costituzione con la nascita di un governo, perché le Costituzioni sono fatte per durare, i governi, come dire, passano necessariamente. Va bene, continueremo poi anche nei prossimi giorni, anche con delle interviste originali all'interno di Effetto Giorno, ad informarvi in vista sul sì e sul no, in vista del referendum per il taglio dei parlamentari. Adesso, invece, come annunciato già nel sommario, parliamo delle novità che sono in arrivo, forse sulle strade delle città italiane. Una novità che arriva dalla Commissione, che ieri ha dato il via libera al decreto semplificazioni. Occorre questa spiegazione perché è una via tortuosa per la quale si arriva a questo risultato. Decreto semplificazioni che si occupa di tutt'altro e che invece uno degli emendamenti, cui è stato dato il via libera al decreto che sarà in queste ore in aula e potrebbe essere votato già nei prossimi giorni, prevede la nascita della strada urbana ciclabile, una novità, una cosa diversa dalla pista ciclabile, uno spazio dove si dovrebbe percorrere con un limite di velocità a 30 km orari per favorire la mobilità cosiddetta sostenibile, leggera, bici, monopattini, pedoni. Ne parliamo con Alessandro Turzi, presidente della Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Turzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, questa novità mi verrebbe a dire dell'ultima ora, ma insomma questi poi in realtà sono dibattiti che vengono da lontano su come riorganizzare lo spazio delle città per favorire forme diverse di mobilità che abbiano dei vantaggi, come per esempio le bici che ingombrano meno spazio, inquinano di meno, fanno bene alla salute, eccetera eccetera. Sono discorsi che facciamo da anni. L'emergenza Covid ha dato una accelerazione sicuramente a tutto questo. La prima cosa che le chiedo è: questa novità in che modo entrerà poi nella vita di tutti i giorni, come riforma del codice della strada, come cosa su cui si dovrà ancora discutere? È un automatismo? Dipenderà dai comuni applicare queste strade ciclabili? Dipenderà dai comuni. Sarà ai comuni definire, individuare quali sono le strade che possono diventare strade E bis, perché le strade sono definite per lettere A, B, C, D. Esistono le strade E, diciamo si comincia con le strade extraurbane, quelle a maggior traffico, poi man mano che si va avanti B, C, D, si arriva alle strade più secondarie, di quartiere, diciamo meno di transito, e quelle che sono insomma di quartiere, le strade locali, e viene aggiunta quest'ulteriore categoria E bis, chiaramente sta al comune fare la classificazione delle strade, quindi è una scelta magari che deve seguire anche una via pianificatoria rapida, ma pianificatoria magari con lo strumento dei bici plan, perché no? E quindi nel momento in cui una strada viene classificata con questa nuova categoria, immagino che lo si farà con strade che già sono classificate E a quel punto, quelle residenziali, scatta tutta una serie di normative diverse, come ha detto lei, diventano strade a priorità ciclistica, cioè la bici ha sempre la precedenza, non è una strada interdetta al traffico, le auto possono passare, ma si ribalta il concetto, cioè l'auto è l'ospite di passaggio che deve dare la precedenza alle biciclette. E mi è venuto un paragone, sì. Nelle aree pedonali sì. Le biciclette possono transitare, salvo diversa decisione o delibera comunale, a volte ci sono, no? Bici alla mano dedicato alle bici, altrimenti sì. Quando c'è scritto area pedonale le biciclette possono passare, diciamolo, perché sennò si dice le biciclette guai sì, in area sì. pedonale, però devono dare la precedenza al pedone e devono regolare, certo, la velocità, perché non è che io, perché ci posso passare, corro e investo magari il bambino che passa in bici. Nessuno deve essere tirato. Quindi lei con nessun fa mezzo. Questo paragone dicendo che la strada ciclabile è un po' come la strada pedonale per quanto riguarda le biciclette, cioè così come le bici sulle strade pedonali sono ospiti, diciamo, dei pedoni in qualche modo, a cui devono dare la precedenza. Possono transitare, ma dando la precedenza, esatto, e moderando la velocità, esatto. Così dovrà accadere. Senta, devono stare attenti e dare sempre addirittura la, sì, precedenza alle biciclette anche quando la bici si immette dall'area privata, cioè con la bici lei sta uscendo dal suo cancello privato, sì, e l'auto sta transitando sulla strada, l'auto deve dare la precedenza. Senta Turzi, possiamo stabilire un collegamento tra queste strade ciclabili e quanto già è apparso in molte città italiane negli ultimi tempi, le zone cosiddette zone 30, dove si circola già con un limite di velocità a 30 km. Questo, la strada ciclabile è qualcosa di diverso da quel che ho capito, però ci sono dei parallelismi, è un potenziamento della zona 30. Addirittura ci sono anche le ibridazioni, cioè laddove la strada è bis, cioè la strada ciclabile, è anche con limite non superiore a 30 km orari, quindi che sia zona 30 o che sia semplicemente strada con limite 30, sì, e bis, è consentito anche il doppio senso ciclabile, quello che erroneamente, con un pessimo pregiudizio, viene chiamato il bici contro mano, contro senso ciclabile. No, è il doppio senso ciclistico, cioè il senso unico è stato istituito per i veicoli ingombranti, perché in una strada stretta, in un centro storico, due camioncini o anche due auto non ci passano, o anche un'auto e una moto, ma siccome la bicicletta occupa pochissimo spazio, ci può passare, non deve, certo, sottostare a quella. È la stessa cosa del pedone. A Venezia durante il carnevale mettono il senso unico pedonale perché è un carnaio pazzesco, altrimenti non ha senso dire senso unico pedonale. E la bici occupa più o meno lo stesso spazio di un pedone. E quindi queste strade bis, qualora siano anche con limite 30, sarà consentito anche, sempre su decisione del comune, sì, caso per caso, sì, non è un automatismo, il doppio senso ciclabile, cioè fare una corsia ciclabile di quelle che abbiamo visto col decreto rilancio di maggio, che è stato convertito in legge a luglio, perché c'è una sovrapposizione di normative pazzesche. Cosa è successo col decreto di maggio diventato legge a luglio? Che si possono fare le corsie ciclabili, cioè indipendentemente se la strada è larga o stretta, semplicemente con la linea bianca tratteggiata, il simbolo bici, possono andare le biciclette, quindi di norma le auto non invadono lo spazio più a destra della strada e stanno più al centro. Queste si possono fare con pochissimi soldi subito in tutte le strade e sono già un primo segnale. A Roma parlano di l'amministrazione capitolina di ciclabili transitorie, cioè le faccio prima con la vernice, poi man mano che aumenteranno i ciclisti si interverrà a fare quelle con il cordolo di protezione. Poi non sempre, perché le strade locali di quartiere non serve il cordolo, sì, ma funziona molto meglio in quel caso la convivenza, come appunto i pedoni e i ciclisti sulle aree pedonali. E comunque questo strumento che è introdotto col decreto di maggio, di questa semplice striscia tratteggiata col simbolo bici, ecco che in questo nuovo decreto, che sembrerebbe ormai il testo abbastanza blindato, quindi dovrebbe essere quello definitivo, si potranno usare anche per fare queste corsie ciclabili in senso opposto, dove ci sono i sensi unici, perché siamo in una strada classificata e bis, cioè strada a prevalenza ciclabile, e il limite 30. Sono tutta una sovrapposizione in casse. Qualche pasticcio c'è, non lo, ecco, ne, speriamo, non lo che, speriamo tutti che questi pasticci siano limitati, perché insomma, si rischia poi di aumentare la confusione. È ovvio che si rischia sempre questo ogni volta che si interviene. Però, insomma, sì, voi, noi ogni volta ci sono novità, facciamo dei piccoli video dove spieghiamo, facciamo delle infografiche molto semplici dove mettiamo a confronto il prima e il dopo, ad esempio spiegare, sì, la differenza tra la ciclabile su corsia e la corsia ciclabile, che sembrano dei giochi linguistici, quindi noi facciamo questo lavoro di divulgazione, siamo sempre disponibili a fare formazione, e abbiamo inventato comuni ciclabili apposta, tant'è che la rete dei comuni che aderiscono a FIAB, da quest'anno nei punteggi prevediamo anche la casa avanzata a bici, sì, semafori e le corsie, sì, ciclabili. Non facciamolo adesso adesso perché non abbiamo tempo di fare il corso di formazione. Però le voglio chiedere un'altra cosa, sì, Turzi, invece, e dare una notizia se possibile quanto riguarda il bonus bici, perché siamo rimasti appesi, no? Sulle modalità per avere il rimborso per l'acquisto della bici in questa fase. Credo che ci siano novità, non ci sarà un'app, ma si dovrà andare sul sito del governo, così? Allora, parlano di un portale, parlano di un portale, non l'abbiamo ancora visto, non è ancora disponibile, e contrattualmente, da quello che ha dichiarato il ministro Costa, la società che sta sviluppando il portale ha fino a 60 giorni dal 5 di settembre, perché sarà pubblicato, se ho ben capito, in Gazzetta il 5 settembre, da lì scatteranno 60 giorni entro i quali la società dovrà rendere il portale operativo. Potrebbe anche fare prima, speriamo, ma non è che ci duriamo. Quindi potrebbe andare a finire addirittura ai primi di novembre. E la richiesta per il bonus bici, poi bisogna avere i tempi per ottenere il bonus. Quindi è un po' godoso, stiamo aspettando. Diciamo che arriva perché i soldi ci sono. Di contro la cosa buona è che sono ancora aumentati i soldi. Eravamo partiti con 70 milioni, 120, 140, siamo a 210 milioni. Basteranno a rimborsare tutti gli acquisti che sono stati fatti in questo periodo, che hanno le caratteristiche giuste? Spero di no, cioè spero che ci sia stato un acquisto di bici ancora superiore a quello coperto dai fondi. Parliamo di cifre che non sono mai viste in Italia per la mobilità ciclistica. Certo, è da criticare i ritardi sicuramente, perché invece per prenotarsi per il bonus auto la cosa è arrivata a luglio, mezzo miliardo di euro subito pronti. Però devo dire, cifre così sulla bicicletta non si erano mai viste, parlare di 200 milioni. Grazie Turzi, grazie Alessandro Turzi. Prego. Presidente della FIAB, grazie per essere stato con noi. Allora, siamo alla pausa, torniamo tra poco dopo le informazioni di borsa, naturalmente ve lo anticipo, parleremo dell'Allianz Stadium con la possibilità di riaprire lo stadio ai tifosi, perché c'è un progetto sulla sicurezza allo stadio della Juventus da parte della regione Piemonte. A tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Scuola, manifestazione nazionale dei sindacati e del comitato priorità alla scuola il 26 settembre per denunciare ritardi e incertezze. Intanto oggi test di medicina per oltre 60.000 aspiranti medici. Il ministro Speranza dice: siete il futuro. Navalny, la Russia respinge le accuse sull'avvelenamento del leader dell'opposizione, nessun motivo per sanzioni a Mosca. Allianz Stadium subito aperto ai tifosi, la regione Piemonte approva un progetto, ne parliamo tra poco. Allora, 13:38 minuti, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, 349-238-6666, una valanga di messaggi sulla questione dei ciclisti, la maggior parte, devo dire la verità, sono sicuramente automobilisti, posso usare un eufemismo, preoccupati, in alcuni casi arrabbiati contro l'inciviltà dei ciclisti, contro il possibilità di circolare in doppio senso circolazione dei ciclisti, insomma. Le solite cose che sapete benissimo. Mi aggancio invece a un messaggio, diciamo, costruttivo, così, di un ascoltatore che chiede: qual è la differenza tra le strade ciclabili, di cui abbiamo parlato poco fa, istituite con un emendamento al decreto semplificazioni che dovrebbe essere approvato, però non è ancora, non sappiamo ancora con certezza se sarà così, e le zone 30 che esistono già. Allora, da quello che ho capito, caro ascoltatore, la differenza è che le zone 30 sono semplicemente zone della città col cartello zone 30 dove c'è un limite di circolazione a 30 anziché a 50, punto. Nelle strade ciclabili invece sono strade proprio dove la priorità l'avranno le biciclette, quindi le auto dovranno stare attente perché le bici la faranno in qualche modo da padrone, una via di mezzo non tra una corsia ciclabile, una pista ciclabile e una strada normale, perché piste ciclabili non sono, insomma sono strade dove le biciclette avranno la priorità e dove ci sarà anche il limite dei 30 km orari. C'è tutto il tempo, credo, per approfondire. Adesso è il momento del punto, il vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Domani il Senato voterà la fiducia sul decreto semplificazioni. Dietro il nome burocratico si nasconde una sfida epocale per il nostro paese: puntare in modo deciso sulla rigenerazione urbana. Anche questa è una denominazione burocratica, che però significa cambiare il volto alle nostre città con demolizioni e ricostruzioni, naturalmente con l'attenzione alla sostenibilità, alla cura del patrimonio culturale di città preziose, cariche di storia, magari scommettendo su soluzioni innovative, con nuovi materiali e nuove concezioni urbanistiche, senza consumo di suolo. Studi internazionali dimostrano che gran parte dello sviluppo nelle economie industrializzate moderne passa proprio dalla nuova concezione delle città e dalla capacità soprattutto di programmarne il futuro. Bene, il dibattito al Senato ha dimostrato come il confronto sia fermo a canoni ideologici di 40 anni fa e soprattutto ha dimostrato come sia fragile la maggioranza, laddove PD e Italia Viva si sono stati in opposizione al Movimento 5 Stelle e l'EU. Non è stato un bel vedere, soprattutto perché questa legge doveva essere una specie di prova d'orchestra in vista dei progetti da presentare all'Europa per ottenere il Recovery Fund. Dovevamo dimostrare che sappiamo guardare il futuro. Non l'abbiamo fatto. Allora, parliamo, come anticipato, di stadi di calcio aperti. Prima o poi doveva arrivare qualcuno che provasse in qualche modo a rompere gli indugi. È accaduto ad opera della Juventus, lo ha fatto sapere ieri il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, che ha detto: ho trasmesso al governo un dossier della Juve col parere positivo della regione per tornare a una specie di normalità negli stadi. È con noi il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie per aver accettato il nostro invito, Cirio. Allora, sembra una cosa lontana anni luce, no? Poter tornare a vedere gli stadi con dentro i tifosi. Invece, perché secondo voi si può in qualche modo fare? Ma guardi, innanzitutto è bene, e voglio segnalarlo e sottolinearlo, noi qua in Piemonte prima abbiamo pensato alle scuole, questo era fondamentale, la nostra attenzione prioritaria è sull'apertura delle scuole 14. Non per polemizzare, ma per segnalare come c'è una scala di valori dove la scuola continua a venire. Esiste una delle priorità. Priorità, ciò non toglie che lo sport, gli eventi sportivi, il calcio, con tutto ciò che ruota intorno alla presenza del pubblico nella manifestazione sportiva, è un ritorno alla normalità, è un pezzo di ritorno a questa nuova normalità. La considerazione è questa: il DPCM, cioè le regole del governo italiano, dicono che per gli eventi di calcio minori si possono aprire al pubblico dal 1 settembre fino a 1000 spettatori, quindi la partita amichevole, tutto ciò che racchiude e richiama meno spettatori. Gli eventi sportivi eccezionali, come ad esempio una partita di calcio di Serie A, hanno bisogno di una procedura particolare. La procedura è questa: la società che gestisce l'impianto fa un protocollo di sicurezza per dire io faccio la manifestazione e la svolgo così, lo trasmette alla regione, la regione istruisce la pratica, e l'abbiamo fatto durante il mese di agosto col nostro servizio prevenzione, e alla fine abbiamo prodotto una certificazione complessiva con il parere della regione Piemonte favorevole, che è andata al CTS, cioè al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che deve dire se va bene o meno per la sicurezza delle persone che andranno allo stadio. Quando potrebbe avvenire la riapertura a questo punto dello stadio, se mettiamo che tutto vada liscio come da voi auspicato? Potrebbe avvenire il 19 di settembre, che è la prima giornata in cui la Juventus gioca. Non è una scelta di privilegiare la Juve, lo dico da juventino, perché poi alla fine sembra che uno lo faccia solo per la Juve. Lo stiamo facendo anche per il Torino, naturalmente, della nostra regione. Non si scherza quando giusto ricordarlo, però l'iniziativa l'ha presa la società, quindi in questo caso sì. Sappiamo però che anche Cairo sta lavorando su questo. Sta lavorando anche Cairo, ma anche perché il DPCM è molto chiaro: spetta al titolare dell'impianto o al gestore dell'impianto fare la prima mossa. E la Juventus a inizio agosto ci ha trasmesso un dossier molto ben dettagliato, un dossier che dice quando si può entrare, come si può entrare, quante persone possono entrare, come ci si deve comportare durante la manifestazione sportiva. E devo dire che i nostri uffici hanno riscontrato che, secondo il Dipartimento di Prevenzione della Regione Piemonte, il rischio non c'è, quindi c'è la possibilità di svolgere in sicurezza la manifestazione col pubblico. Ci ha raggiunto anche il nostro collega Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao a tutti. Hai qualche curiosità, qualche domanda da fare al Presidente della Regione su questo? No, io sto notando che in molti si stanno muovendo in questa direzione. Leggevo anche ad esempio in Lombardia nel basket, Fontana avrebbe una strategia, un piano simile. Mi domando, magari ingenuamente, se non sarebbe opportuno, lo dice anche Petrucci, presidente della Lega Basket, opportuno una manovra unica, unitaria, che non siano solo i governatori a provare a scardinare i lucchetti che chiudono gli stadi e i palazzetti. Ma guardi, il DPCM dà alle regioni questo potere, non è che siamo in un vuoto normativo. Anzi, io credo che per tante cose scritte poco bene nel DPCM ultimo, questa era scritta bene, perché dà la richiesta all'utente, diciamo all'istante, quindi alla società, che sia di basket, di pallavolo, di calcio, dà alla regione l'istruttoria della pratica, ma dà l'ultima parola al CTS. Quindi io sono convinto che il CTS, che non dimentichiamo, è questo comitato, sono gli scienziati romani, come li chiamiamo noi, che valutano gli elementi di rischio, useranno lo stesso parametro per autorizzare Padova come Milano. Come tutti. Una sorta di federalismo della riapertura degli stadi, cioè, giusto per usare un'espressione così un po' abusata. Ciro, le voglio fare una domanda anch'io. Qual è l'aspetto che è più delicato, secondo lei, per riaprire uno stadio ai tifosi? Cioè l'ingresso, l'uscita durante la partita? Ha detto bene, l'ingresso e il recesso, perché lei immagini uno stadio come può essere lo Juventus Stadium, 40.000 posti, quando tu metti 7-8.000 persone dentro, evidentemente non hai il problema di farle stare a distanza quando sono seduti, il problema è farli entrare in modo scaglionato e quindi dando loro un orario di presentazione ai tornelli che faccia sì che non ci siano assembramenti all'ingresso e anche all'uscita. E per questo non ci sono dei parametri numerici definiti, non c'è scritto da nessuna parte che se hai 1.000 spettatori puoi metterne 200, non funziona così, dipende proprio da quanto sei capace e anche quanto investi per garantire gli accessi e recessi in modo sicuro. Vabbè, quindi aspettiamo la risposta del CTS, se abbiamo capito bene, a questo punto dipende da loro. Sì, dipende da loro e attendiamo naturalmente. Auspichiamo che i tempi romani siano tempi che poi permettano di organizzare gli eventi sul territorio, per cui io ieri ho trasmesso a Roma la documentazione e mi attendo entro la fine della prossima settimana di avere una risposta in modo che poi Juventus possa partire. E nello stesso tempo abbiamo comunicato a tutte le società sportive del Piemonte che siamo pronti a fare altrettanto e ad affiancarle nel caso in cui vogliano seguire lo stesso esempio. Grazie Alberto Cirio, presidente del Piemonte. Carlo Genta, non so se avevi qualche altra curiosità su questo. No, ma è tutto molto chiaro. Continuo ad augurarmi che l'Italia tutta intera, al di là di quello che stanno facendo i governatori, si muova ad un'unica velocità. Mi sembra bizzarro mettere lo sport in contrapposizione con la scuola, è una contrapposizione che non esiste se non ad uso demagogico. È chiaro che sono due piani diversi, ma non possiamo dire una cosa è fondamentale, l'altra è totalmente inutile per quanto riguarda lo sport, perché non è così, quindi è semplicemente una non abusare di questo tipo di demagogia e cercare di muoversi in maniera unitaria, perché a Torino se si giocherà a porte chiuse mi sembra strano, se poi vai in un'altra città, vai a Napoli e si gioca a sì, porte chiuse. È vero, il tuo ragionamento sono d'accordo, è vero anche però che può darsi che ogni stadio, ogni realtà abbia come dire la necessità di trovare delle modalità particolari, no? E che quindi poi i progetti debbano essere declinati sul territorio. Carlo, dacci un tema invece per tutti i convocati di oggi. Ma ci sarà con me Filippo Maria Ricci, che normalmente ci parla da Madrid. Adesso Madrid è venuta a noi e quindi Messi, anche perché ci sono varie notizie, anche abbastanza contraddittorie, dell'ultima ora su Messi. Il padre dice no, tutto finito con il Barcellona. C'è un'altra voce che arriva dall'Argentina che dice ma forse ci sta ripensando, anche perché i soldi sono tanti e i tempi sono stretti. Ma se fosse davvero tutto finito col Barcellona, la tua persona, so che ti faccia domanda da $1 milione, dove finisce Messi? Ma l'ipotesi più probabile è il Manchester City. Ieri abbiamo letto di un ingaggio che sarebbe, non so quanto siano notizie fondate, ma è chiaro che se ti dicono ti diamo 50 milioni? Sì, 11 milioni di più, 11 milioni al mese. Ah! Beh, allora quelli sarebbero cifre davvero che non hanno folli, possiamo dire folli? Sì, siamo nel regno del feticismo, ecco, più che del calcio. Credo anch'io. Va bene, grazie Carlo, ti ritroviamo dopo naturalmente con tutti i convocati. A partire dalle 14 noi facciamo un break, torniamo tra un attimo. Effetto giorno. 13:50, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. Allora, cari ascoltatori, facciamo anche noi un piccolo corso di recupero, vai a questo punto, perché cerchiamo di recuperare una domanda che avevamo fatto al ministro Manfredi sui test di medicina e siccome è andata via la linea non potevamo lasciarvi così sospesi. Allora, io ringrazio Eugenio Gaudio, che è rettore della Sapienza ma anche vicepresidente della CRUI, nonché consigliere del ministro Manfredi, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Senta Gaudio, le chiedo se è possibile di dare una risposta a questa domanda che avevamo fatto al Ministro. Ci sarà la possibilità, che è stata ventilata, di recuperare con un'altra data a settembre il test per l'ingresso alla facoltà di medicina per quegli studenti che non possono andarci perché sono, non so quanti siano, ma insomma in isolamento domiciliare proprio per via del Covid? È un problema che è emerso negli ultimi giorni. Assolutamente, un problema nuovo, ovviamente legato a questa caratteristica della pandemia, ma è un problema che non interessa solo il test di medicina, è un problema che investe tutti i concorsi pubblici, come è facile comprendere. Per cui il Ministro ha posto al Governo questa tematica in modo da trovare una risposta che poi sarà ovviamente valida a livello nazionale per tutti i concorsi, e quindi il problema è allo studio dei uffici legislativi, dell'Avvocatura dello Stato, anche del Consiglio di Stato, in modo da avere una risposta che poi sarà valida per tutti i concorsi pubblici, perché si tratterebbe di innovare quella che è stata la prassi fino ad oggi consolidata, che purtroppo chi non poteva partecipare per qualunque motivo, perché ha sbattuto con la macchina, perché si è fratturato una gamba, o perché è malato, o perché è in ospedale, e fino adesso non è stato possibile. Questa della quarantena è un problema ovviamente nuovo e va inquadrato da un punto di vista giuridico. Gaudio, è più un sì che un no, cioè state lavorando sulle modalità, ma di vedere se è possibile, non ci sono pregiudiziali da parte delle università, ovviamente, ma è un problema giuridico delicato che investe tutti i concorsi pubblici e quindi va risolto a livello nazionale. Va bene, grazie, io la ringrazio, il vicepresidente della conferenza dei rettori dell'Università Italiana, Gaudio. C'è probabilmente un tema di ricorsi in caso in cui appunto venisse riaperta la data per un qualunque concorso, compreso la test d'ingresso per la facoltà di medicina, evidentemente per non aprire il fianco a queste criticità si sta trovando il modo, se esiste, per dare comunque un'altra possibilità a chi è in isolamento domiciliare per il Covid. È questo lo spazio nel quale normalmente ascoltate la lettura dei giornali internazionali con Giulia Crivelli, che anche oggi non è con noi, assente giustificata. Gianpaolo Musumeci, ti ritroviamo invece presente, con piacere, giustificato. Nessun luogo è lontano, torna oggi alle 16. La Andrea Roccabella peraltro sorride amaro perché non ha assistito a questa gag abbastanza volte, evidentemente. Non ha capito. No, forse ha capito troppo bene. Gliela rifacciamo o forse no? No, anche no. Su cosa state lavorando, Gianpaolo, per la puntata di oggi? Lo ricordo che il vostro è un lavoro anche di scavo, no? Non sempre siete a rimorchio delle notizie in primo piano per quanto riguarda gli esteri. In questo caso forse però un tema centrale c'è, che è quello della Russia. Esattamente, Russia, perché tutte le strade porterebbero a Mosca. Parliamo dell'avvelenamento di Alexei Navalny, grande oppositore di Vladimir Putin. Era stato ricoverato in Serbia, poi la Germania è riuscita a farlo ricoverare in una grossa clinica vicino a Berlino, condizioni stazionarie. La Germania, ieri lo riportavamo proprio da questi microfoni, ha chiesto spiegazioni al regime di Mosca. Mosca ha risposto la solita maniera russa, verrebbe da dire, molto elusiva, quasi un muro di gomma: non abbiamo notizie di queste cose. Però gli sviluppi politici di questa vicenda, che diventa sempre più internazionale, potrebbero essere molto, molto potenti, molto pesanti, perché al baluardo tedesco, contro questo muro di gomma russo si stanno accodando altri paesi europei. Anche la NATO vorrebbe avere spiegazioni. La CNN riporta un'interessantissima intervista a Vil Mirzayanov, che è l'ex capo del Dipartimento Tecnologia della Controintelligence del KGB. Cosa faceva? Sostanzialmente dedicava la sua vita, la sua professionalità, è un chimico, alla produzione proprio di agenti, di tossine, di veleni, come quello che avrebbe avvelenato Alexei Navalny e lo stesso Skripal, lo ricorderete, 2018 nel Regno Unito, lui e la figlia Julia. Anche in quel caso le strade portavano a Mosca. Da Mosca si fanno sentire alcune voci che vorrebbero portare avanti questa tesi: non tutto quello che accade, che viene dalla Federazione Russa, dipende da Putin, cioè vi sarebbero anche delle dinamiche, degli apparati non direttamente gestiti da Vladimir Putin che avrebbero potuto compiere questo atto. Che avrebbe potuto compiere del resto chiunque da un certo punto di vista, anche sì, se il anche se, utilizzato esattamente, anche se molti analisti sottolineano, attenzione, che questa è una firma a tutti gli effetti, è come se questo tentato omicidio portasse l'autografo. Tema spinosissimo, bisogna usare tantissimi condizionali e vi devo anticipare e confessare, Alessio, che ci sono più ombre che luci, quindi proveremo a accendere qualche riflettore qua là, però forse solo un'inchiesta condotta in Russia con magari ospiti di giuristi internazionali potrebbe diramare queste Beh, mediche. Mosca ha fatto sapere che non intende condurre alcuna inchiesta, ecco, per appunto. Esempio, quindi a proposito di muro di gomma, peraltro stiamo cercando disperatamente Yulia Mineva della Novaya Gazeta, che è un giornale fortemente di opposizione rispetto a Putin, dovrebbe concederci una breve intervista, quindi speriamo di regalarla agli ascoltatori da qui alle 16. Ecco. Una delle voci originali di Nessun Luogo è lontano. So che vi state occupando anche delle notizie emerse per quanto riguarda l'uccisione del consulente italiano in Colombia. Esattamente, parliamo della morte di Mario Paciolla, 33enne, era il 15 luglio, la polizia colombiana lo trova morto nel suo appartamento, lo battezza come un caso di suicidio, i familiari insorgono, complice una serie di telefonate, di allarmi che il figlio aveva lanciato. Mario si sentiva insicuro, si sentiva minacciato. Adesso, complice anche il lavoro di alcuni colleghi del Corriere, di Repubblica, una giornalista colombiana e la stessa ONU, stanno venendo fuori una serie di elementi che proverebbero, proveremo a raccontarlo dalle 16 in poi, uno stranissimo benefica miscela, per cui Mario ha fatto il suo lavoro, ha condotto una serie di indagini, lui si occupava del processo di pace tra il governo colombiano e le FARC. Certo. Durante un'operazione militare l'esercito colombiano avrebbe compiuto un mezzo massacro, uccidendo anche alcuni minori in un villaggio. Lui si occupò di quel caso, lo portò all'attenzione dei suoi superiori all'ONU. Quel report, che conteneva però anche il nome di Mario Paciolla, finì sul tavolo della politica colombiana, fece dimettere un ministro. Quindi i politici colombiani videro il nome di Mario Paciolla legato a quel report. Quel report fece cadere un ministro e da ciò anche insomma gli ascoltatori meno scafati di queste questioni capiranno che è diventato super esposto e super vulnerabile. Cercheremo di ricostruire quello che è accaduto, è un po' una nostra missione quest'anno, il caso Mario Paciolla l'abbiamo raccolto, no, al fine stagione l'anno scorso, è qualcosa di veramente giustamente eclatante, per quanto possibile a livello giornalistico è doveroso. Grazie Giampaolo, ti ritroviamo naturalmente alle 16 con Nessun Luogo. Noi invece ci fermiamo qua con la puntata di oggi di Effetto Giorno, con Andrea Roccavella in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Da me, Alessio Maurizio, auguro di una buona giornata. Ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento.